Vogliamo vivere bene. Mangiare bene. Dormire bene. Vogliamo respirare aria pulita. E bere acqua non contaminata. Non vogliamo discariche e inceneritori. Non vogliamo morire di lavoro. Non vogliamo più morire di alternanza scuola-lavoro. Non vogliamo l'amianto. Non vogliamo mangiare pesticidi. Non vogliamo respirare sostanze tossiche. Non vogliamo lavorare tutto il giorno, tutti i giorni. Vogliamo un salario dignitoso. Vogliamo una casa. Vogliamo la scuola vicino casa. Vogliamo servizi sanitari pubblici di prossimità. Vogliamo fare sport. Vogliamo il tempo per studiare. Vogliamo tutto, perché quando c'è tutto, c'è anche la salute. La nostra salute non è in vendita. Non pagheremo noi la crisi economica e sociale. Il governo attacca i settori popolari. Noi, il 17 dicembre, diciamo basta a soldi per armi e guerre e basta ai tagli alla sanità. Contro questo governo, contro questo sistema. Manifestazione nazionale a Roma sabato 17 dicembre. Appuntamento alle ore 14 a Piazzale Aldo Moro.